Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La cosa, aspetta, come si chiama? Il programma Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guarda, è una cosa piacevole. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, dove iniziamo stasera, caro Parenzo? Iniamo da una frase buonasera, perché mi devi fare imbestialire subito al primo secondo, poi dice uno così, dice le parolacce alle 18:35 mi mandi in bestia subito, questa subito. Trasmissione non usa sì. Buonasera, buongiorno, no, eliminiamo queste cose qua, me ne sbatto le palle, chiaro? Mi devi fare incazzare alle 18:35 subito, è incredibile, guarda, carichissimo, arriva carichissimo. Allora, ricominciamo. Buonasera e ben sintonizzati. Basta, dai, su. Sai quelli che dicono ben sintonizzati? Ma non mi fare arrabbiare subito che sono in forma stasera. Mi fai arrabbiare subito con sto buonasera saluti agli ascoltatori. Basta, no? E anche i cagnolini all'ascolto direbbero nella trasmissione della signora Celentano. Bau, bau, bau. Allora, partiamo con quello che ha detto il signor Augias. Basta, dai, a far culo tutti, porca puttana, a far culo. Sentiamo cosa hanno detto, cretini. Non si può fare niente, dai. Non si può fare niente stasera, dai. Ha iniziato così, siccome non c'ha niente da dire, siccome non ha letto nulla, non ha fatto niente tutto il giorno, la butta in caciara, va bene, d'accordo. Non ha fatto niente, no. Allora. Mai. La frase di Augias ieri sera, programma di martedì con il signor Floris. Augias, parlando della storia dei pedofili a Napoli, del palazzo, eccetera, eccetera, pronuncia questa frase, dico subito perché l'ho ascoltato attentamente una decina di volte, è una cazzata spaventosa, cioè dice una boiata senza fine. Sentiamo. Di questa foto che questa povera madre mostra, mi ha fatto impressione il contrasto che c'è tra lo sfondo, credo che quella statuina dorata, lasciamo perdere sia Padre Pio se vedo bene, e questa bambina che aveva 5-6 anni, la guardi bene, guardi com'è atteggiata e com'era pettinata e come sono i boccoli che cadono. Questa qui è una bambina che a 5-6 anni si atteggia come se ne avesse 16-18. Questo stridore, questa povera madre, per carità, tutta la pietà, ma c'è questo stridore che mi fa capire che anche lì si erano un po' persi i punti di riferimento. Alla luce dei fatti che successivamente. Poi mi fanno impazzire gli applausi a comando, no? Cioè, chiunque parla in certe trasmissioni. Non credo sia a comando. Ma no, viene applaudito per che cosa viene applaudito? Per una banalità, diciamo, che si erano persi i punti di riferimento. Certo, col padre che non ha mai visto la bambina. Però con aspetta un attimo. Con la madre, che pare non aver controllato molto bene quello che succedeva. Sembra, perché poi lei dice il contrario. Sono persi i punti di riferimento. Applausi su una banalità colossale che dicono tutti. Ma la cosa incredibile è l'atteggiamento che avrebbe la bambina. Ma che cazzo ne sa Augias? Non è vero che quella foto mostrata dalla madre dimostra che la bambina sembra avere 16-18 anni, con i boccoli che cadono, pettinata, la bambina che si atteggia. È veramente un insulto a una bambina morta. Cioè, ma che ne sai tu? No, non è vero, no, ma non è... Sì, come se l'atteggiamento da bambina più grande avesse in qualche modo facilitato la via, la strada al pedofilo. Ecco, no, ma non è, invece non credo proprio sia questo. Cioè, tu puoi criticare, dice, la valutazione, guarda, che lui se fa. L'avesse detto Salvini, gli saresti saltato addosso al collo. No, ma non ci saresti saltato. A me non interessa chi lo dice. Come siccome lo dice Augias, l'intellettuale, ma non mi interessa di sinistra, niente. Ma allora non mi interessa bene, niente. Dai. Se avesse detto una cosa che non condivido, l'avrei detto. È una non boiata interessa. Infinita. Lui ha detto una. No, ecco, non c'entra. Si può criticare, ovviamente, ma non c'entra nulla con la giustificazione di quello che è avvenuto. E allora cosa vuole dire? La puttana. La stupidaggine del dibattito che si è scatenato, no, poi no, ma sul che cosa web, vuole dire Augias? No, lascia perdere il web. Augias, cosa vuole dire secondo te? No, parlando dei bocconi, dei boccoli della bambina. No, cioè, la cosa che non è interpretabile è piuttosto chiara, che non cosa? È che c'è da fare l'esegesi. Non è vero che dimostra 16 la parola 18 anni. Piatta, chiara, che lui ha detto è che anche in quella famiglia, evidentemente, se i bambini si vestono in quella. Poi può essere ma se condivisibile. I bambini si vestono come? Da non momento, è vero. Può essere non condivisibile è vero, è falso. O no il ragionamento. È falso. Però premesso che non c'entra nulla. Ma la se giustificazione. Ti da grande, se ti vesti da grande, hai perso i riferimenti culturali. Ma che cazzo dici? Scusami, una bambina. Se mia, una perché bambina se tua figlia, di 5 se tua anni si veste con, in modo da sembrare 3-4 anni più grande, che hai perso i riferimenti culturali. A 5-6 anni, mia figlia non si mette il rossetto, non si mette il non si fa i buchi all'orecchino. Adesso, all'orecchio. Adesso mettersi i buchi nell'orecchino e mettersi il rossetto a io 6 anni è diventato perdere i riferimenti io culturali. Non lo giudico, è veramente lo, una supponenza, è una snobberia vergognosa. Io non ti dico, io non critico chi lo fa, ti dico che non hai coraggio mia, di criticare questa frase vergognosa di Augias. Dovresti mia, vergognarti. Quando mia figlia mi ha detto a 7 anni, oggi ne ha 9, che voleva mettersi gli orecchini, è perché una scelta prima quella. Me... Ma è una scelta, ma che vuol dire? No, ma è una scelta, ma non è che chi lo alle medie. Ma fine. Che cosa vuol dire? Questo ma è il mio ma parere. Non è che il mondo gira tutto come dici ma tu. Infatti oh. io do un'educazione, poi dopo ognuno gli altri farà... non la danno l'educazione. Chi mette l'orecchina no, a 7 anni non è educazione. Un'educazione diversa dalla mia. Gli altri daranno un'educazione diversa. Mi dovete vergognare per questa snobberia assurda. Vi dovete no, veramente vergognare. Ma non è una snobberia, è una questione di educazione. Io a mia figlia non le faccio mettere lo smalto sulle unghie a 5 anni. A parte che là anni, lo smalto delle unghie di questa anni. Bambina non no, si vede. No, ma vedono. Sto parlando nel merito di questo. Poi, quello non che... hai il coraggio di attaccare Augias, ho capito, dai, forza. No, ma non è che io ho coraggio, non me ne posso dire la una cosa. La Santanchè e la castrazione sbaglia, chimica. Che sbaglia. La Santanchè e la castrazione chimica. Ma bisogna anche dare delle pene esemplari. 6-12 anni sono troppo poche. E poi la castrazione chimica, che gli si deve castrare il cervello, che è andato in tilt, che si è bloccato. Quindi non bisogna avere pietà. Distruggere il palazzo di Caivano. Io vorrei vedere distrutto domani mattina quel palazzo, perché quel palazzo rimane un simbolo nella mente delle persone. Poi si scontra con Don Patriciello, col prete. Perché naturalmente il prete dice: come ti permetti di dire che bisogna demolire il palazzo? No? Ma appunto. Senti. Ma che cazzo vuol dire? Ma se noi concentriamo il male di quei se tanti il male preti che play, hanno usato, hanno abusato dei bambini se, della Chiesa. Se il male sono i Rom, noi avremo. Signora, forse io non lo so se suo marito, visto che adesso si parla. Visto che adesso si parla di un papà di famiglia, io seguendo il suo ragionamento devo dire che anche suo marito è un pedofilo, perché questo papà è un papà, non è un prete, stiamo parlando di un dicendo? Papà di famiglia e lei ha un marito dicendo? E lei ha delle persone che sono ma io mi vergogno di dire quello che lei ha detto ancora una volta. Io non so, non riesco a capire perché Paolo, che è una persona della quale ho tanta stima, l'abbia invitato in questa trasmissione. Ma che questa signora si permette di dire di demolire quel palazzo, di lasciare questa gente in balia di questa opinione pubblica, che ancora questi miei ragazzi, questi miei bambini, che dovranno soffrire ancora di più, essere ghettizzati ancora di più grazie a questa donna che avete invitato a parlare sul caso di Fortuna, questa signora che lei non sa, in questi quartieri non è mai venuta. Come ma cosa ne sa lei di me? Ma guardi a casa sua. Allora, sentite questa voce da Napoli, no? In cui si parla di omertà. Credo che siano abitanti di quel quartiere lì, eh? Cioè, l'omertà su questi casi non c'è, su altre cose sì, però. L'omertà qua, bene o male, ce l'abbiamo, però su questi casi qua no. Allora, guardando ieri sera Porta a Porta, che ha fatto una bellissima trasmissione su questa vicenda con tutta la famiglia della bambina di Fortuna, e poi c'erano delle persone che parlavano, l'Abruzzone come al solito, la Matone eccetera, ti posso assicurare che la persona più ragionevole secondo me era il padre, cioè il padre che è stato credo 10 un pezzo, no sì. È stato era il padre numero uno assoluto, il padre della ragazza, il quale rispondeva punto per punto alle stronzate che venivano dette, per esempio anche sul disegno, no? Sul disegno della bambina che tutti interpretavano. A un certo punto c'era l'interpretazione del disegno della bambina, che secondo me è un disegno normalissimo, che non faceva però vedere. È chiaro che se uno fa una trasmissione su quello, elemento diventa un elemento di discussione, perché certo, e diventano delle puttanate anche, quello è chiaro. No, ma il padre diceva delle cose assolutamente normali. Il padre che ha fatto 10 anni di galera perché non si è mai difeso, mi hanno detto, per reati come tipo le vendita di sigarette, il cocco in spiaggia. 10 anni. Senti che dice sul presunto violentatore. Ho dei forti dubbi su questa storia. Ho dei forti dubbi. Di che genere? Ma proprio perché prima di tutti, cioè, Caputo è una, cioè, come devo dire, ha violentato la bambina, ma io non sono sicuro che Caputo l'ha ammazzato. Perché ora vi spiego perché. Ho dei dubbi miei, perché come hai detto tu prima, cioè uno, lui la preda ce l'aveva fatta. Non aveva bisogno di ammazzare la fortuna. È incredibile come definisca la figlia morta una preda. Una preda. Cioè la freddezza di quest'uomo che ha visto la figlia in tutto, credo 5-6 volte, mi ha colpito particolarmente. A un certo punto dice la pena di morte è troppo comodo, ci vuole l'ergastolo. Dunque, alcuni dicono castrazione chimica, altri dicono ergastolo, chiudere la chiave, altri addirittura ieri sera Bonanno qui diceva bisogna approntare una specie di piscina con i coccodrilli dove buttare dentro i pedofili, no? Lui dice invece l'ergastolo, ed è quello più ragionevole, infatti ergastolo a vita, oppure punturina. La pena di morte è troppo comodo, per me sarebbe meglio, cioè, come in Italia, l'ergastolo che non esce più, ma deve avere 10 anni di isolamento diurno, cioè ogni 5 anni, un anno se ne fa in isolamento, ogni 2 anni altri 6 mesi va in isolamento. Traffico veicolare. La Zanzara. Allora, stasera ne abbiamo anche per Marchini, per il signor Marchini, candidato sindaco a Roma adesso con l'appoggio di Berlusconi. Alfio Marchini, personalmente non ho nessuna antipatia nei confronti di Marchini, anzi. Però, amico mio, l'altro giorno, durante Piazza Pulita, parlando di un grave incidente che ha avuto tempo fa suo figlio, che è uscito dal coma, dunque una storia drammatica, per carità, quello che vuoi, ha parlato della questione della cannabis. Ora va tutto bene, prima ascoltiamo questa cosa, poi vi dico quello che penso. Ascoltiamo Marchini sul figlio uscito dal coma dopo l'incidente e il ruolo delle droghe in questa cosa, che apparentemente non c'entra un cazzo, secondo Marchini sì. Io, lei come sa, ho avuto un figlio che purtroppo ha avuto un incidente, è rimasto in coma e fu miracolato. Io ho fatto uno studio approfondito su che cosa succede dentro la testa di un giovane che ha avuto un incidente. Questo mi disse, guarda, che suo figlio ha avuto un recupero, è solo perché non si è mai fatto delle canne. Se mio figlio avesse fatto uso di droghe leggere, non è certo un crimine che tutti quanti lo fanno. E sa cosa succede? Un secondo. Si crea una fattura nel cervello e quindi l'input, diciamo, tra una parte e l'altra della testa, riesce a trovare un altro sentiero e quindi a riconnettere le parti del cervello che hanno avuto un danno permanente. Quindi io dico ai ragazzi, non fate uso di droghe leggere. Allora, ovviamente l'invito ai ragazzi a non fare uso di droghe leggere va benissimo, per carità, cioè per me è inutile, ma va bene, cioè che Marchini dica, candidato sindaco a Roma, ragazzi, non ve drogate, non ve fate le torna, non capisco. Si vede che qualche medico gliel'ha detto, però non è che se l'ha inventato. Sì, non c'è dubbio, i medici gli hanno detto, fatto che il figlio non ha mai fatto uso di droghe, è uscito dal coma del cervello. Questo è uscito dai medici. Ora, per non carità, credo che se lo sia inventato lui. No, per carità, i medici gli hanno detto che se il cervello è reattivo, cioè non è in pappa. Sì, io non ho nessun elemento per dire se è vero o no, ovviamente. Non ho nessun elemento perché ragazzi, non sono un medico. Però è come dire, grazie al fatto che mio figlio non ha abusato di droghe, cioè non c'ha il cervello a pezzi. Oppure grazie al fatto che mio figlio non si è fatto di eroina, oppure non ha anche grazie a questo forse è uscito dal non coma. È un alcolizzato e dunque ha il cervello, diciamo, più o meno funzionante, funzionante, e per recuperare ci ha messo meno tempo, o comunque è stato facilitato il recupero. Non mi pare una follia, ma non è un esempio da fare per uno slogan anti droghe. Mi sembra una cosa assurda, francamente. Cioè io vorrei trovare un medico stasera che mi chiama in diretta qui, un medico che si occupa di queste cose. cose, non è facile, lo so, però faccio un appello lo stesso, che mi spieghi il rapporto che c'è tra il recupero da un coma, come dice Martini, e l'uso. E no, perché questo, beh, è il questo punto. È il fondamento del suo ragionamento. Ma cosa di cazzo che vuol lui dire? Ha, cioè, lui ha detto non bisogna, cioè, fare se uso. Se qualche medico gli ha detto questo relativa alla sua storia personale, lui evidentemente ne trae come, cioè, lezione. Secondo te esiste un medico che gli ha detto suo figlio si è salvato grazie al fatto che non si è fatto le canne? Non ho la palla di vetro, non lo so, non c'ero quel giorno che gliel'ha detto e non credo che se lo sia inventato, e penso che se un medico gli ha detto che grazie al fatto che suo figlio aveva le sinapsi a posto, evidentemente ha recuperato prima, cioè non ho un elemento per dire che ha detto ma una balla. Ma io, nemmeno io ho elementi scientifici, ma mi pare normale che... Posso dirti, da ex fumatore di canne, purtroppo è tanto che non ne fumo neanche una, perché purtroppo non c'è tempo. Purtroppo. Vorresti fare una canna ogni sera, diciamo la verità. No, ogni sera, quando hai messo a letto i bambini, ma no, sei in salone, no, tranquillo, no, con Natania, ogni sera vorresti spararti una canna. No, perché sennò ne perdi il gusto ogni sera, farei una volta all'anno. Ma una, no, una volta un paio, una volta all'anno, una volta, ma neanche quello ormai. Dai, una cannetta settimanale, dai. No, te lo direi, non ho problemi. Perdi il gusto, se no, come quelli che fumano 50 sigarette. A me non piace, non, fumerò. Non conta nulla. Dai, ma una, due volte all'anno fumo una cannetta, ma non è quello il tema. Il tema è vero che le cannette ti bruciano i neuroni, le sinapsi? Ma è chiaro che se ti fai 100 canne al giorno, ma se ti fai 100 canne al giorno, il cervello va in pappa. Se vai in coma, probabilmente il cervello reagisce meno. Questo mi pare ha detto, non è uno scandalo. Ma ho capito, ma dai, insomma, un medico può dire una cosa del genere, grazie al fatto che suo figlio non si è fatto le canne, si è salvato, ma non te viene in mente. Gliel'ha detto un medico. Ma che medico è, ragazzi? Mi permetto di dire che non ha senso questa cosa. Mi permetto di dire, non conosco questo medico che gli ha detto che la cosa non ha senso. Bah. Andrea da Ravenna, cominciamo, ragazzi, vai. Ciao. Dimmi, volevo dimmi intervenire sul discorso di Augas. Cioè, sì, quello che hai fatto sentire tu, no? Quell'estratto. Cioè, veramente, qui siamo al Medioevo, ragazzi. Cioè, io sono incazzatissimo cioè, come cazzo fa questo qui a dire i boccoletti, il rossetto? Allora, perché i boccoletti e i rossetti? Perché una bambina cioè un po' cosa, cioè, si merita di essere stata violentata? No, ecco, questo non l'ha detto, questo non l'ha detto, però, che però, poi tutti però ragazzi, ho capito, però è normale l'errore che se tu... è questo qua, ma l'errore no, è perché, normale. Scusa ragazzi, perché si tratta di Augias, se stiamo dicendo questo, no, perché l'avesse detto qualcun altro avremmo detto, ecco, ha detto che le bambine che si conciano... No, non è, ma la gente non è stupida nella polemica, non è vero. Andrea uno ha capito questo, e io sentendo la televisione, e io vedendo la televisione... Anche tu hai detto che ha capito male. Vedendola, secondo me, però, è normale... No, secondo te, anche tu hai detto che ha capito male. No, ti dico la verità. Criticare la frase dei boccoli, ma nessuno ha detto che siccome è vestita così allora meritava di finire in quel modo. E allora nessuno perché l'ha detto? Detto allora perché l'ha detto? Perché? E allora perché non c'è spiegazione se non c'è un riferimento alla violenza? No, no, perché stava facendo un discorso, Andrea, culturale, sì, sui culturale, bambini e Andrea, su come vengono cresciuti oggi da madri che non le vogliono fare. Non sai nemmeno tu, non sai dare una spiegazione, sì, se non quella. Cioè che no, il fatto che sia una bambina più cresciuta, devo... secondo lui, della sua che età, oggi può provocare attrazione, no, da parte dei pedofili. Questa è la realtà. In molte famiglie, anche i bambini, quelli più piccoli, allora, più infanti, e allora, dunque, crescono già come dei piccoli, delle piccole adolescenti. Dunque, e quindi? Dunque. E qui è il nome. Allora la conclusione qual è? Che sono più attraenti per i pedofili. Questo è il sottinteso della frase. Possono risultare con un gioco femminile è più questo, non è attraente. Ma non Andrea, c'è una correlazione, Andrea, tra i boccoli, il rossetto, come no? E allora di che parliamo? Scusa, Andrea, dimmi. È una cosa inammissibile. Quello che hai detto tu è quello che è il mio pensiero. Cioè, ragazzi, qui siamo in una nazione che veramente, cioè, questi sono pedofili, l'ha tirato giù da un sesto piano, ma ovvio, ti rendi conto? Vabbè, questo, cioè, perché, ragazzi, perché deve dire ma così? Secondo lei qualcuno qua può giustificare, ma secondo, lei, ma secondo lei qualcuno, per quanto, sì, di sinistra e poco sano di mente, quindi, secondo lei qualcuno può sostenere, sì, in modo lucido che quel pedofilo ha un attenuante perché la bambina, no, quello era no, però ha e detto allora che basta la colpa della famiglia, e allora no, questo ma... è il tema, no, ha detto fine, che la ha detto che la colpa della famiglia è anche quella di averla conciata in quel modo, perché in quel modo dimostra 15-18 anni, non cosa falsa, colpa della cosa famiglia, come no, chiedi responsabilità culturale della famiglia, come no. Claudio da Roma, vai. Claudio, buonasera, dimmi. Augias vuol mettere in luce il discorso che lì c'è una madonnina o un padre pio e tu atteggi, vabbè, tua figlia. Quella è un'altra, così, quella è un'altra roba che non c'entra assolutamente nulla, no, scusami. Il collegamento tra la madonnina di padre pio. Quello. Vabbè, all'inizio ha detto quello, ma il collegamento all'inizio tra la madonnina di padre pio e la ragazza che secondo lui è conciata, vabbè, in quel modo. Non... E da lì ha perso tutto il discorso di controcultura religiosa. Ma che non c'entra niente, dai, questa roba qua, dai Claudio. Ma come non c'entra ma come, niente? Secondo te ha fatto un ragionamento corretto? Secondo te ha fatto un ragionamento in base alla religiosità e a ciò che la persona. Ma perché sente. Non ho capito, le persone religiose non possono avere i figli truccati o con l'orecchino? Non ho capito questa cosa qua. Io sono religioso, mia figlia non va in giro truccata. Abbiamo capito che le bambine oggi, secondo la regola ortodossa e quasi fondamentalista di Parenzo, Claudio da Roma, bambine di 6 anni. Non possono avere il rossetto, fermi. L'orecchino, perché altrimenti è una deviazione culturale. Io ho detto semplicemente una deviazione che tu a casa culturale. Tua puoi decidere di far quel Pierluigi che vuoi. Milano. Siccome io sono un padre, decido come educare mia figlia. Pierluigi Milano, questo l'abbiamo capito. Pierluigi da Milano. Allora io ti dico che dammi pure del retrogrado. No, ma a casa chi ha detto mia, del retrogrado? Tu mi stai dando del retrogrado, non me ne frega un perché cazzo. Perché tutti devono essere uguali, hai detto. No. Io chiedi, tua figlia può avere gli orecchini anche a 2 mesi. Beh, non mi interessa niente. Pensi che sia una cosa? Io penso che a casa mia, mia figlia, fino alla terza media, non fa il buco agli orecchini. E è possibile? Fa? E chi lo fa? Sono fattacci suoi. Ah, bene, sono fattacci suoi. A casa mia non si mette lo smalto. Fermi, torniamo tra un quarto le d'ora. Donne fino a casa mia si fa così. Torniamo tra un quarto d'ora. Cruciani, tu sei uno stronzo. Sei fastidioso. Sei spocchioso. Sei strafottente. Ma io ti amo. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Oh ragazzi, voglio il nome delle donne con cui ha fomiciato Parenzo. Mica le voglio! Voglio andargli a sputare in faccia! Allora, siamo qui, 19 e 19, numeri di telefono li conoscete, però abbiamo un collegamento perché abbiamo l'avvocato Angelo Pisani, che è l'avvocato della famiglia Loffredo per la vicenda. Scusa, ma l'avvocato Pisani? È lo stesso di Maradona. Allora, avvocato Pisani, buonasera. Salve, buonasera a tutti, salve. Allora, credo che lei abbia... È l'avvocato di tutti i casi più scottanti, sto Pisani, il comandante. Beh, Pisani. Insomma, se la... sempre gli innocenti. Difende sempre gli innocenti. Allora, tutti così. Angelo. No, non dicono così. Io difendo gli innocenti. Tra l'altro, è anche più difficile difendere gli innocenti. Perché se difendi un colpevole, hai più chance di vincere. Se difendi un innocente, hai solo la possibilità di farlo all'arrivare innocente. È anche difficile che un avvocato dica che difende dei colpevoli, diciamo, no? Diciamo di principio. Diciamo è più difficile difendere un innocente, purtroppo, anche se sembra una contraddizione. Senta, io credo, avvocato, che diamoci del tuo Angelo, che tu accanto hai il padre della ragazza, della bambina che purtroppo è stata uccisa. Ti ascolto al telefono. Sì, Pietro Loffredo, ce lo puoi passare un attimo, grazie. Sì, vi ascolto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Salve Loffredo. Allora, volevo capire da lei innanzitutto una cosa. Ho visto ieri Porta a Porta quello che lei ha detto anche alle persone lì presenti, quello che ha raccontato. Mi sembra di capire che lei abbia un dubbio su chi ha ucciso sua figlia, è così? Cioè, non è che io ho il dubbio, sono le carte che portano a dei dubbi. Cioè? Perché io leggendo il fascicolo vedo che delle cose che a me non mi piacciono, come persone che si hanno messe in mezzo a questa storia dicendo che di qua non è passato né Caputo né Fortuna. E quasi alla fine di questa storia ritroviamo queste persone che hanno nascosto la strappina di Fortuna. cioè, l'hanno buttato. Ecco, senza entrare troppo nei dettagli. Per me, io non sto dicendo niente di strano. Io sto dicendo la verità. Cioè che non torna il fatto che sia stato Caputo a uccidere tua figlia, giusto? Allora, Caputo è un violentatore, un mostro, può essere anche l'assassino, mettiamo tutti e due esempi, perché io dico anche la mia. Sì. Cioè, però Caputo, nell'intercettazione, dice, speriamo, non mi ricordo, non voglio sbagliare, comunque dice, il morso che ho dato a Fortuna nella caviglia, ora rimane alla mia saliva, puoi vedere. Lui è un segno di preoccupazione, che penso io, che facendolo a sporco con Fortuna lo possono accusare, sì, come effetti, sì, così è stato. Come ecco i dubbi che c'ho. Ecco, ieri hai usato... No, scusami Pietro, ieri hai usato una parola, cioè, siccome era la sua preda, perché avrebbe dovuto ucciderla? Uno può dire, giusto... quello che dico io, ormai lui, a Fortuna, le altre figliastre che c'aveva, ce l'aveva già, erano sue. Sì. Era una sua, perché ma pure se piangevano dopo una carezza era sempre una bimba. Ragazzi, io mi sto pensando tutto, perché a me si devono dire tutti quanti la verità. Sì, no, ma perché, questo è giusto. Tu dici, siccome erano già sue prede, perché avrebbe dovuto uccidere? Uno può pensare perché... No, ma scusami un attimo. Dimmi. Allora, io sono pure un po' confuso anche, però ti dico una cosa. Può essere anche che lui davvero l'ha ammazzato, però voglio sapere perché questa donna ha intracciato la legge, ha tolto questa scappetta e ce l'ha buttata, nonostante che sapeva che la legge cercava questa scappetta. Ma chi potrebbe averla uccisa se non lui, se non Caputo allora? Ma qua stanno un sacco di persone. No, secondo te, dimmi la tua opinione. Qua detto, prima, piano piano arrestiamo tutti i palati, anzi arrestano tutti i palati, per dirti. È pieno di pedofili. Esatto, qua di scusami, c'erano gente che dicevano ai microfoni, ma quando mai 35 anni, 40 anni, non si è sentito mai niente, e poi erano proprio i familiari, oppure no, amico mio, io non ci sto, io se sto con qualcosa di mia figlia, pure qualcuno che magari non ci ha pensato, io lo dirò sempre, e ti giuro, guarda, sì, questa storia non finirà mai. Pietro, ma secondo te quel palazzo lì è un palazzo pieno di pedofili oppure semplicemente c'è grande omertà nei confronti di un solo pedofilo? Ma io non penso tutte queste cose, pedofili, omertà, io penso che la maggior parte non è che sono tutti male lì dentro, perché se devo dire sono tutti male, no. Però quelle poche persone male che ci stanno o che hanno visto o che hanno nascosto delle prove... Sì, devono uscire fuori. Devono uscire fuori prima, perché c'hanno i figli, e poi ormai togliamocelo questa maschera. Ci hanno sgamato, cioè, hanno scoperto intercezione ambientale, vi hanno trovato. Senti, Pietro, tu hai visto pochissimo tua figlia, no? Mi sembra. Cosa? Hai visto pochissimo tua figlia perché era in carcere, giusto? No, io purtroppo sì, l'ho visto proprio l'ultimo momento che lei moriva. Cioè, l'hai vista quante volte? Che moriva. Ma io sono visto 5-6 volte. 5-6 volte, forse pure qualche volta mancante, perché ora vi devo fare il conto dei permessi che ho preso nel 2014, perché ogni volta che prendo il permesso, ogni mese mi recavo da loro. Sì, mi ha detto il tuo avvocato che tu sei stato in galera per una cosa incredibile, una serie di reati perché non ti difendevi. Quanti anni hai fatto in galera? Allora, non è che ho fatto, io sono dal 2006 che vado in galera, poi sono uscito, poi ho fatto gli ultimi 6 anni, se non so. Comunque ho parato sui 8 anni e mezzo, 9 anni di galera. Ma che ha fatto? Per CD, per fare truffe, cioè ho fatto qualche truffa scioccata, cioè sciocche, che senso? Che tipo? Ero bambino, andavo a fare il rimborso del treno che c'era utilizzato. E purtroppo non è che facevo qualcosa io. Vendita di CD poi? Poi vendevo CD, poi ho avuto, ti dico la verità, 11 mesi perché non ho fatto il militare, che non era più reato. Poi... All'epoca purtroppo eravamo tutti ragazzini, sto dicendo la verità, ho fumato un po' di spinello, queste stronzate, mi presero con un 0,2 mg, una sciocchezza proprio, 6 mesi di carcere. Cioè hai fatto un cumulo esatto, di piccoli reati. E adesso allora, cosa vuoi fare, cosa fai? Allora, io dico la verità, sì, onestamente adesso penso solo ai resti di figli miei, la mia famiglia, sto pensando... Ma cosa vuoi fare? Che lavoro fai adesso? Adesso il lavoro, non lavoro, in estate vendo un po' di cocco e sono pronto fra 20 giorni che vado a vendere il cocco, perché purtroppo quello c'ho. Dove lo vai a vendere il cocco? Io lo vado a vendere a Lanciano il cocco. Vorresti una licenza? Che vorresti? Vorresti un'autorizzazione? Magari se mi danno un'autorizzazione a lanciarlo, perché io già ti dico la verità, una volta che stai parlando, io l'anno scorso sono uscito dal carcere di Lanciano, sì. Ho recato le spiagge, ho venduto un po' di cocco e ho avuto un po' di problemi. Eh beh, te credo, perché comunque senza licenza come fai? Però io volevo parlare pure per dire, perché uno che deve fare, non è che voglio mettere questo fatto in mezzo. Senti, però torniamo alla vicenda di Fortuna. Se tu avessi di fronte Caputo, no? Che cosa faresti? Io ti dico la verità. Sì. Cioè, se mi trovi storto è normale che lo ammazzerei, però mo in questo momento, come hai fatto la domanda, la rabbia che ho, mo lo farei arrestare. Meglio fare arrestare anche se fosse quella donna o chiunque che è indagata. Io se faccio i nomi, dico una cosa: che pena merita? E poi stanno nei registri di indagati. Che pena merita, secondo te? Per me, merita la pena più dura dei mafiosi. Perché se è mafioso. 41 bis. Ma di più, perché qua non ci sono. Se io lo metto di più del mafioso il pedofilo. Se vuoi la legge dice il mafioso il pedofilo, cos'è? E dunque che deve stare in carcere, isolazione, 41 bis, senza niente? Allora, senza niente, senza la meta, senza aspetti, deve avere 10 anni di isolamento duro. Cioè, ma non una botta, no, si fa 2 anni di carcere, 6 mesi di isolato, posale, un altro anno di carcere, continua l'isolamento, ma un altro anno di isolamento. Cioè, capito, deve fare spezzettato questi 10 anni nella sua vita, dell'ergastolo, fino all'ultimo giorno di vita. Che prima di morire anche, prima che muore in isolamento. Questa è la fine che deve Cioè fare. Non la castrazione chimica, come dice qualcuno. Qualcuno dice la castrazione chimica. Anzi, quello fosse proprio buono. Buono, dice Salvini, per esempio. Salvini dice sempre la castrazione. Dice bene, ma pure in carcere stanno bene loro, fra di loro. Io ho visitato i carceri, che senso? Perché sono stato detenuto. E appunto. Cioè, sono stato ospite. E allora ho visto. Beh, li aggrediscono in carcere. No, ascolta a me allora. Dimmi, ti ascolto. Sto dicendo che ho visto tutto. E io ho visto nel carcere che sotto di me, a Viterbo, dove stavo a Viterbo, ci sono dei pedofili che stavano tutti quanto bene. Giocavano, ci avevano il biglietto fuori, erano tutti protetti perché sono uno più pedofili dell'altro. E allora si aggiungono fra di loro. Ah, tu dici che questa qua è una leggenda, il fatto che in carcere sono minacciati, sono percossi. Sì, io sono sicuro che. Ma lo so perché sono passato. Noi, certo. Noi quando passavamo sopra al primo piano, più di dire pedofilo, a dire delle parole, sì. Non potevamo fare. Sì. Addirittura, a parte che stanno le spalle, e poi seconda cosa, i giudici proprio loro sono che non permettono che lo toccano. Che logicamente è così, però io dico, dateci una punizione severa come ci state dando ai mafiosi. Sì, ho capito perfettamente. Senti, ti chiedo una cosa, c'è uno scrittore che non so se tu conosci, uno scrittore, scusami un attimo, dimmi. Carceri, ho sentito che addirittura hanno fatto anche delle sporcherie continuando a fare nei carceri. Addirittura, nel carcere, hanno continuato nel carcere, come fanno? Quello che ho sentito, ecco allora perché ti dico, Caputo non si deve muovere dal Poggio Reale. L'unico, allora fatevi una resa dei conti. Sì. Parecchi detenuti sono morti con reati stupidi. Sì. Di 2, 3 giorni, 6 mesi, un anno di carcere sono usciti morti. Sì. Ma non si sa perché, o per le guardie, sì. Eccetera. Sì. E sono morti. Caputo che ha fatto, diciamo, già degli orrori con i bambini violentati, accusati dell'omicidio di una bambina di 6 anni. Sì. Di andare fuori. Deve stare in carcere migliore? No. Io voglio Caputo a Poggio Reale tutti gli anni della vita sua a Poggio Reale. Perché Poggio Reale è carcere proprio per questi qua, non per i detenuti che non fanno reati. Ho capito, tu dici per i pedofili perché è un carcere durissimo che fa schifo. Però non devono stare quelli là, quello che vende la droga, quello che fa rubare, no, questi qua, tutti i pedofili. Senti Pietro, una cosa, uno scrittore che si chiama Augias ha detto che tua figlia, ieri sera in una trasmissione televisiva, ha detto che tua figlia era conciata come una sedicenne. Ha visto la foto di tua figlia, la conosci Augias? Allora io ti dico una cosa. Prima di tutto questo c'è stato denunciato, poi secondaria cosa. Cioè, l'avete denunciato? Ma per cosa denunciato? Perché poi vi dico una cosa. Ma perché cosa ha denunciato? Dimmi. Se questa signora vuole guardare a mia figlia, che si è vestita a 6 anni, vedi quante bambine che a 4 anni la mamma perché ci piace, oppure a loro che sono ragazzine, vedono i grandi e lo vogliono fare. Sì. Che significa questo? Non significa nulla, da bravo, hai ragione. Ha detto questa cosa, non sa nemmeno quella che dice. E perché cosa l'avete denunciato? Che cosa l'abbiamo denunciato? Perché per informazione, perché prima la mattina guardato sta passando per dire brutti momenti come sto passando io, ma magari può essere anche attaccata. Allora tu già se dici una bambina sì. è stata truccata, ma vedi quanta bambini trucchiamo, io ho un'altra figlia eppure ci piace truccare. No, perché qualcuno pensa... Aspetta, scusami, c'è sì. 5 anni, allora che vuol dire questo? Questo cioè... è uno scemo, quello che ci dice il termine. Sì, perché, perché... è una persona che già... Una persona che già? Cioè che già che fa un discorso così per me non è normale. Ma allora, va bene, ho capito. Pietro, grazie. Perché tu non puoi fare un paracone con una bambina che è truccata. Ci passi ciao. L'avvocato un attimo, un attimo. Come l'avvocato. No, a ciao, ciao l'avvocato, Pietro, passami l'avvocato. L'avvocato passami l'avvocato un attimo. Buonasera. Angelo, scusate, perché avete, perché avete denunciato Augias? Abbiamo denunciato Augias per diffamazione, perché ovviamente c'è un codice etico giornalistico e tra l'altro una normativa sui minori, per cui lui non poteva permettersi di parlare in quel modo di una minore. Tra l'altro una minore, cioè secondo te ha fatto credere, ha, no, fatto, credere, è, scusi, ha fatto credere, ha fatto credere che, lui che fosse colpa della famiglia, che fosse colpa voleva, da... no, voleva alludere che questa bambina di 6 anni vestita in quel modo, tra l'altro colorato, niente sì, di più sì. perché era estate, quindi è normale sì. che una bambina sì, d'estate sì. sia vestita con abiti corti, potesse aver, diciamo, quasi provocato, secondo lui, il pedofilo, sì. o era giusto che questa bambina vestita da grande corresse questi pericoli. Sì. Questa è un'affermazione di una gravità enorme, di un'ignoranza infinita. Per cui diffamazione, diffamazione. Questo, questo soggetto ovviamente merita di essere sottoposto a un giudizio e poi il giudice valuterà. Va bene. Ciao Angelo, conflitto. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Saluti, saluti. Velocità. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Vai con gli ascoltatori, Parenzo, Giuseppe da Milano, vai, vai. Eccoci, eccoci qua. Giuseppe, dimmi, dimmi. Buonasera, io volevo fare una domanda al dottor Parenzo. Dobbiamo sì. mettere il burka alle bambine o alle presunte o alle adolescenti o siamo in Italia, in un paese democratico? Allora, sono le 19.38, chiedo scusa agli ascoltatori, non ho mai sentito una puttanata, no, ma è una provocazione, mi ricalmo, è una provocazione. Più grossa di questa. È una provocazione. Nessuno ha sostenuto... Nessuno ha sostenuto di mettere il burka alle bambine. Nessuno. Lei può metterle la minigonna e anche il tanga e il perizoma, per quanto mi riguarda. Non sarò io a giudicarla. Io dico solo che a casa mia io faccio altre scelte. E la minigonna la si mette alle medie. D'accordo? Questa è una cosa democratica, io sono d'accordo. Non è democratica, a me non me ne frega nulla di chi fa cosa fanno gli altri. Se poi mi si chiede un giudizio, io dico che c'è un è quello che sto per dare, e scatenerà il putiferio solito perché la gente non, perché qualcuno non capisce, lo fraintende. Se mi si chiede un giudizio, cioè come giudico io le bambine, non il caso di Fortuna, non il caso della bimba, ma le bambine di 6 anni, 5 anni, 4 anni, vestite come adolescenti, se mi si chiede questo, il reazionario Parenzo dice che siccome c'è un tempo per ogni cosa, penso che sia compito di un genitore, il sottoscritto, altri fanno altre scelte, decidere di spiegare ai bambini che c'è un per ogni età c'è un vestito Vabbè. Adatto. Questo pensa il reazionario Vabbè. Parenzo. Giuseppe, allora? Fine. No, allora quello che vorrei dire io è che se noi abbiamo paura di vestire le nostre figlie, le nostre nipoti per paura dei pedofili. Ma nessuno ha paura. È una questione per me anche di buon gusto. Lasciamo stare i pedofili per un momento. Io reputo, posso dire di più? Io reputo di cattivo gusto. Posso dirti di più? Vuoi sapere ancora di più? Ma non è quello il punto. No, ma volete sapere di più? Però non c'entrano i pedofili, perché il primo che si azzarda a dire che difende un pedofilo, lo attacco al muro e lo querelo. Il primo che si azzarda. Sì, ma adesso mi è stato chiesto. Ma no, va bene, d'accordo, ma si fa, sta parlando. I pedofili fanno vomitare. Vabbè, d'accordo. Vanno evirati. Io sono d'accordo con Salvini sui pedofili. Sono d'accordo con Salvini. Cioè la castrazione chimica. La castrazione chimica. Sono d'accordo con Salvini. Castrazione chimica e carcere. E carcere. Vabbè, se mi si chiede come giudico io le bambine di 5 anni vestite come adolescenti, sì, che io non è il caso di fortuna, secondo me. Comunque. Che, esatto, sì. Su questo. No, su quella ragazzata di Augias è quella, scusami. Va bene, però io entro nel merito della cosa. Vabbè, invece, ancora di più. Io reputo quella di cattivo gusto, cosa, non ti piace. Non solo di cattivo gusto, anche Barbara proprio. Va bene, Barbara. Pierluigi da Milano. Personalmente. Può pensare che sia una barbarie pure la cosa là, come si chiama, la tagliare il prepuzio ai bambini, cioè non è che sì, è uguale. Ma va bene quello, Pierluigi Milano, vai. No, non chiedo che venga fatto tutto, infatti. Ma no, ma per dire, una barbarie sì, poi sì, è applicabile sì. A mille cose. È una barbarie vestire i bambini come delle adolescenti. Sì, Pierluigi da Milano, vai. Secondo me, poi dopo. Pierluigi? Dove è andato? Pierluigi? Niente, Luca, provincia di Lecce, vai. Luca. Buonasera. Dimmi, vai. Salve, innanzitutto vorrei approfittare... No, Luca, fermo lì un attimo. Ragazzi, ma quante volte devo dire io che bisogna spegnere la radio dietro? Quante volte lo devo dire? Dai, basta. Luca, dimmi. Si può più ripetere. Ma il problema, la radio è spenta. Il problema, volevo proprio segnalarvi che da 2-3 giorni la linea è davvero disturbata. Io la radio non vi sento per niente, mi sento so, davvero purtroppo male. Purtroppo quello è un casino. No, vabbè, a parte questo, non dipende da noi, purtroppo. Non dipende lo so, vabbè, era solo per dire. Praticamente vorrei... parlare del discorso della presunta omertà dei napoletani, sì. Nel senso, o comunque della situazione sì. Di Caivano. In quella zona, crescita in quelle parti, porta i ragazzi ad avere tanti esempi particolari o comunque strani attorno, che per loro è. Cioè, nel senso, si cresce davvero molto, molto in fretta. Questo non... Ma no, ma che cosa bizzarra che hai detto, che cosa originale, soprattutto una cosa che non abbiamo mai sentito in questi giorni. Cioè, ti stai dicendo che in quei quartieri si cresce in maniera particolare, si cresce in maniera diversa dal quartiere dove abita i Parioli, dove abita Augias, che è una casa da non so quanti milioni di euro ai Parioli, e dunque ci sono dei quartieri invece a Napoli dove si nasce con dei riferimenti, diciamo, chiamiamoli così, culturali diversi. Ma no, ma che cosa bizzarra che abbiamo scoperto questa sera per bocca di Luca dalla provincia di Lecce e prima ancora da parte del professor Augias. Luca, dimmi. È una capra! Sì, no, sei una capra, va bene. No, no, no, non sono stato io, mi scuso per no, quello. No, no, ma va bene. No, tu no, no, no, no, non è quello. Dunque, è logico, dunque ma si sa, che il vuoi problema, dire, Luca, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con questo intervento prima che mi rompo i coglioni definitivamente? Cosa vuoi dire? Voglio dire che... Non vuoi me... dire niente, non vuoi dire niente, la realtà è questa, non hai niente da dire. Che significa sta cosa? Non hai niente da dire. Non hai niente da dire, dimmi qualcosa. Dici la famiglia. No, ma io ti ho detto che secondo me crescere in quelle zone, in quei quartieri. È difficile. Non è difficile. Che ci cosa si adatta? Non è e allora? Dunque? Dunque, secondo me, la gente in quelle zone cresce e vede le cose e non sempre gliene frega qualcosa di dire. Hai capito qualcosa, Parenzo? Totalmente nulla. Arrivederci Luca, buona serata. Stefano da Napoli. Pronto? Buonasera. Dimmi. Senta, io voglio dire questo. Io sulla stampa ho visto due fotografie della povera bimba. Sì. Una assomiglia a quella tricetta, si ricorda, come si chiama? Calze lunghe, Pippi calze lunghe. Ecco un'altra cazzata questo qua, dai. Come? Stefano. Ecco un'altra cazzata, Stefano, vai. No, no, non faccia per finire di parlare. No, per carità, può dire tranquillamente. Assomiglia... Ha capito a che mi una assomiglia a Pippi calze lunghe. Poi... Brava, la prima, e va bene. Poi ne è apparsa un'altra fotografia. Sì. Non so le epoche, quali sono. Che l'altra fotografia, devo dire sinceramente, che mi ha sconcertato. E perché? È l'aspetto della bimba, il viso. E che c'ha il viso? Io si vedono tanti bambini, no? Un viso che non andava, insomma, non era un viso. Non andava il viso, benissimo. Non era infantile. Come si chiama questo? Non ha un viso infantile. Come si chiama, ragazzi? Questo, io veramente siete impazziti tutti quanti. Non era, cioè, io ho visto la foto ieri sera mostrata durante la trasmissione dove c'era Augias. A parte che anche su questo si potrebbe discutere, cioè, si potrebbe partire da questo. Cioè, è giusto o no mostrare la foto di un minore? Ma si potrebbe solo. Quello è la. La è morta, è morta. Per questa esempio. È la. Beh, cosa c'entra? È morta, nel senso, è la madre che lo espone, dunque è la madre che lo fa. Cioè, ecco, no, appunto, si potrebbe però cominciare a partire da questo. Cioè, è giusto o non è giusto? Perché poi il risultato è questo qui, che giustamente un Corrado Augias qualunque e un Roberto da Bubù di Racalmuto, la cui opinione vale uguale, ovviamente, sono legittimati come questo qui a dire no, assomigliava a Pippi. No, ma va bene, uno può dire quello che vogliamo. Dietro, cioè, se lo. Come vogliamo? Andrebbe vietato, ad esempio, ma forse. Che vietato? Ma ognuno c'è, insomma, cioè, forse adesso, andrebbe vietato di pubblicare le foto Sebastiano dei, D'Ancona, dai. Dei minori anche in genere, in genere è così, ma sono i genitori che lo fanno, dunque va bene. Sebastiano D'Ancona. Sebastiano. Buonasera ragazzi, buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo. Bisognerebbe avere un minimo sì, di onestà intellettuale e sì, di ammettere da parte di una persona come Augias, che tutti conosciamo la qualità sì, culturale e altro, che ha detto una cazzata, perché responsabilità dei genitori che permettono a quella bambina di agendare, ma è una bambina e Augias ha detto una cazzata. Questo sì, no, ma questo mi pare scontato, sono persone che lo difendono, vabbè, va bene tutto. Sono persone che lo difendono, ma... No, ci sono persone che lo difendono, ma l'avesse detto qualcun altro avrebbero detto che è una cosa barbara. Esatto, io volevo vedere se era Buonanno che sparava questa cosa. Se era Buonanno che diceva alla famiglia l'ha ghindata in questo modo offrendola in pasto, perché il sottotesto ma comunque è questo. Il sottotesto è che, come diceva Nietzsche, conta chi dice le cose. Chi? Chi lo diceva? Il signor Nietzsche, che è morto, però signor anche lui qualcosa. Nietzsche. Signor Nietzsche diceva che... Alle 8 Nietzsche, no, dai. No, alle 8 no, non però lo può imparare anche lei, guardi. Se lo guarda su Google, cioè Nietzsche, adesso andrete tutti quanti Nietzsche a vederlo, anche no, i miei amici camionisti. Sì, perché sono persone colte, andranno no, a vederlo. Ma perché non ce ne frega un cazzo di quello che dice Nietzsche. Comunque dillo, che dice? Ma è morto povero Nietzsche, povero Nietzsche, comunque diceva, è morto da un po' di tempo, però diceva una cosa intelligente, cosa cioè diceva? Che conta molto chi diceva le cose. Cioè la credibilità di chi dice una cosa. Infatti ne stiamo parlando. È importante. Infatti ne stiamo parlando perché è un opinion maker, e infatti, uno di se quelli... l'avesse detta siccome Buonanno, per dirla in sintesi, siccome Buonanno dice cazzate, ecco Nietzsche dice così. Siccome Buonanno, che per fortuna Nietzsche non ha avuto la fortuna di conoscere perché è morto prima e si confrontava con altre persone, non con dei dementi come Buonanno, Nietzsche avesse conosciuto Buonanno avrebbe detto sì, l'opinione di un cretino e rimane l'opinione di un cretino anche se una vabbè, volta dice una cosa intelligente. Ciao, questo è ciao, il punto. Siamo al top ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Senza di te non andremo lontano, David Parenzo capitano. Il mondo si sta ribaltando qui, eh? Il mondo si sta ribaltando. Ma sentiamo questo incredibile servizio, perché ormai abbiamo fatto scuola, abbiamo fatto strada, abbiamo aperto nuove frontiere a un sacco di persone durante la trasmissione di martedì, sì, di martedì, certo, siccome hanno molto capito, sì, sì, che l'igiene personale, sì, e le parti intime, sì, sì, sì, le, come dire, la pulizia del corpo, certo, certo, e anche il sesso, direi anche il sesso, in questo caso il sesso fa audience. Hanno fatto un servizio sullo sperma, vi posso assicurare, sì, che è così, probabilmente a tarda ora, non alle 19.48. L'hanno fatto alle 23.30, te lo dico Lo sperma lasciato sulle lenzuola degli hotel. Beh, lo sperma lasciato sulle lenzuola degli hotel. Grandissima inchiesta. Con questa speciale lampada possiamo rilevare tracce organiche tipo urina e liquido seminale. Siamo in un hotel a 4 stelle, appena ristrutturato. No, il problema è che uno arriva in un albergo e dice vabbè, tutto pulito, tutto a no? posto. Tutto a posto invece. E questa qua cosa potrebbe essere? Beh, naturalmente è chiaro, su un letto ci si fanno determinate cose, quindi beh, se togliamo la federe era meglio non toglierla. Mamma mia! Troviamo la sorpresa. Cioè, non ho capito, praticamente c'è una specie di macchingegno che serve. È come a... fosse il Luminol, guarda, è presente il Luminol che si e usa. E che cosa nella... si scopre? Che in realtà le lenzuola, che sono non quelle lasciate dai clienti, ma quelle nuove. Sì. Immagino, quelle nuove. Cioè, sì, sì, diciamo, ci sono non tracce organiche vive, ovviamente. Sì. Ma se tu con il Luminol vedi, trovi delle chiazze di sperma, di uri. Di... Sì, io mi sono sempre chiesto una cosa. Questo poi la tosse in diretta, succede qualsiasi cosa. Cioè, mi sono sempre. Mi sono emozionato all'idea di aver dormito in un letto di sperma. Proprio mi fa schifo. Perché ho dormito talmente in tanti alberghi da inviato della mia vita che mi fa. Non ci avevo mai pensato. Bisogna ringraziare Floris per la porcheria che ci ha fatto. No, che porcheria, una cosa vera ci ha fatto vedere. Ci ha messo in evidenza, no, certo. Ci ha fatto vedere una cosa vera. Degli voi, alberghi, quando dico. Andate in albergo, ecco, sì, state sicuri che troverete le vostre lenzuola piene piene di macchine. No, io me ne fotto totalmente, perché ovviamente ecco, no, è questo il punto. Ma sì, perché, ma me ne fotto, invece, dai, sguazzi nell'immondizia, no, nello sporco. Questo no, questo no, non mi farebbe piacere nemmeno a me, che se fossero organiche. Sono delle tracce minime, delle tracce che poi scompaiono, cioè che non danno nessun fastidio. Cioè, anche se tu metti le tue chiappe, se metti le tue gambe. No, ma è chiaro che le lenzuola sono state lavate a temperatura elevata. Però no? Restano delle macchie di sperma. Restano delle macchie di sperma nonostante tutto. Io mi sono sempre chiesto, quando uno scopre in albergo, no? Cosa succede? Come vengono pulite poi quelle lenzuola? Spesso beh, uno vengono messe a 100 gradi, immagino, no? Però come mai restano alla fine queste tracce? Beh, questo qua è un restano grande giallo, perché eh? No, perché siccome il liquido, come tu ben sai, è acido, è come non se si riesce il tessuto si fosse bruciato. Non esatto. Si riesce a debellare del tutto. Come la varichina, no? Si finisce sul vestito. Ti senti rimane. Ancora questo, i bordi evidenziati sul materasso. Senti, senti braio, questo. Senti. Quando si notano questi bordi più sì? evidenziati, questo è pipì, sicuro. Evidentemente non è così pulito, non è così come pulito, credevamo. Certo. Ma se l'hotel a 4 stelle era combinato così, cosa ci sarà in un vecchio motel a ore? Il copriletto non sembra pulitissimo neanche a occhio nudo. Proviamo a spegnere la luce. Giriamo il copriletto e mettiamo un bigliettino su ogni macchia. E i bigliettini finiscono prima delle macchie. Allora, qualcuno mi dice che le Iene in realtà fecero 3 anni fa il servizio su sperma e urina negli alberghi. Non c'è niente di nuovo all'orizzonte. Non c'è niente di nuovo all'orizzonte. La novità è che non me ne fregherà un cazzo, lo fa una trasmissione che di solito parla sempre, no, di politica. Ma ormai la politica non tira più, noi l'abbiamo scoperto da tempo, e dunque tira più, ma questo è abbastanza normale, lo sperma sui materassi o sulle lenzuola. Allora andiamo a Palermo da Antonino, signor Antonino, Palermo, vai. Cruciani, sì. Lorenzo. Sì. Segnati questo nome, vai su Google e poi vedi chi sono io. Te la ricordi questa cosa? Antonino, no, ricordi, che ne so, non lo so. No, vai su Google e vedi chi sono io. Carminati. Sì, bravissimo. No? Senti qua, allora sai che devo chiamare. Allora, cioè, prima, per cui dici, vai, fai Antonino. Vai su Google e vedi che Antonino Spina, sì. Io Antonino Spina, aspetta, me lo da segnare. Antonino. Nino Spina. Spina. Aspetta, come la spina che punge. Aspetta, Nino Spina. Eccolo qua, allora, Nino Spina. Senti qua. Aspetta un secondo, fammi fa Google intanto. Nino, il signore dei cuccioli. Nino Spina, il mercante di cuccioli che non aiuta i cani. Ah, quelli, quello che ti rompe i coglioni là, quell'animalista là che ti rompe i coglioni. Uno, sono 100.000. Senti qua, primo, i pedofili in carcere non li toccano. Allora, sono... Io ho fatto 3 anni e 11 mesi, mi ascolti. Quanto hai fatto in carcere? Quanto hai fatto? 6 anni e 11. 6 anni e 11, ma per che cosa? Vabbè, furti, rapine. Sì, cose normali. Cose che quando pratichi butta gente succedono. Sì, ma normale, la cosa curiosa, è, aspetta un attimo, Nino, aspetta un attimo. La cosa curiosa è questa: ma come mai, Parenzo, a noi ci chiamano un sacco di criminali? Beh, questo dovrei chiederlo io. No, ma è questa è una cosa buona. Ma tu, tutti i criminali li vedete in televisione? Ex criminali. Sì, quello è vero, quello è vero, questa hai ragione. Ma qua li senti dal vivo. No, a me piace molto questa cosa. A me piace moltissimo. Per carità, non sono un criminale. Ex criminale, vabbè, ex criminale. Sì, per carità, scusi, professore. Il vabbè proprio da levare tu. Vabbè. Allora, i pedofili in carcere sono messi in un piano a parte, sempre, sì. Si chiama divieto d'incontro, questo viene dato automaticamente a chiunque abbia un reato particolare, capito? Quindi non vengono toccati assolutamente, hanno l'aria, hanno il mangiare, hanno i colloqui premiali, quindi non li toccano nessuno, levatevi, queste cose succedevano all'antica. Beh, però è quando successo capito? Nei vecchi carceri, primo. Secondo, te la ricorda la Vanna Marchi, a quella là che diceva che credeva a Santa Rosalia e c'erano i falli a Monte Pellegrino finti che vendevano i falli di Santa Rosalia? No, non me lo ricordo questo qua, i falli di Santa Rosalia. C'è la Vanna Marchi che dice stronzate, continua a dire stronzate. Cioè, che c'entra Vanna Marchi? Scusa, aspetta, spiegami sta cosa. Aspetta, sì, Nino, c'è la pubblicità, fermo lì. Allora, abbiamo il mitologico Nino Spina from Palermo, sì. Il quale viene accusato di essere una specie di mercante di cuccioli. Il mercante, sì, dei cuccioli. Sì, ex criminale, diciamolo. Ma ex criminale, uno ha fatto un po' di anni di galera. Un ex criminale, come lo vuoi chiamare? Un ex detenuto. Forse un ex studioso di Harvard, avremmo detto. Ex studioso di Harvard. È un ex criminale, va benissimo. Definiamo ex criminale, non è che abbiamo detto nulla di. Nino, fermo lì, che poi ci dici questa cosa di Vanna Marchi. Non ho capito un cazzo. I falli di Santa Rosalia. Che storia dei falli finti. Ah, roba incredibile. Cruciani, sei un figlio del demonio. La Zanzara. La libertà di stampa in Italia al 77° posto, ma la Zanzara è al primo posto. Viva la Zanzara! The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Allora, ci ha chiamato il mitologico Nino Spina da Palermo. Alcuni mi scrivono: chiedi a Nino Spina quante denunce ha sulla vicenda dei cuccioli. Quante denunce hai? Neanche una. Neanche, siamo sicuri? Sì, siamo sicuri. Ma no, 100%. No, c'è un avvocato. Ma perché ti accusano? Di che cosa? Perché ti accusano? Senti qua, Luciani, in due secondi. Qua io sono amato e odiato allo stesso tempo, il più famoso di Palermo, purtroppo, per me. E allora, io lavoravo alla Keller 2 anni. Ho preso 35.000 euro con un incidente stradale con una moto, un Beverly. Con 35.000 euro ho comprato un FJR 1003 nuova, intestata a mio padre, e ho aperto un piccolo terreno per tenere 4 cagnolini a Carini. Dopo 2 anni e mezzo mi finiscono i soldi, chiude la Keller, mi rimangono i cani. La gente mi contatta, senta signor Spina, abbiamo trovato 4 cuccioli in mezzo alla strada, il canile è chiuso, non li può prendere, che fa? Lei li accoglie? Sì, non mi dà 40 euro. Ci fa per mangiare, ci penso io, lo spazio c'è. Viene un altro, senta, guarda, ho preso il cagnolino, mi ha fatto la cacca nel tappeto, mia moglie non lo vuole più, che fa? Lei se lo prende? Signora, mi dà 10 euro, 15 euro, lo prendo io, ci penso io. Meglio avere di stare con un cane che con una persona. E così ho cominciato questa. Ma quanti cani hai adesso? 2187 cani dati. Ma dove cazzo li tieni? Dove li tieni? A Carini? Ascoltami, 2187 cani dati e 14 cani per ora all'attivo. 7 sono arrivati poco fa. Ma dove li tieni? Dove li tieni sti cani? Ho un terrozzo di 120 metri quadrati adesso. Però sono tanti. E poi li vendi? Li vendi? Tre posti. Non li vendo, li do in non è una vendita. Ma come ci guadagni? Scusa, amico mio, li venderai? No, sto dicendo, Cucci, no. Quando me li portano mi danno i soldi. Quando scendo la mattina mi metto al centro di Palermo per 3-4 ore, raccolgo soldi e mangiare e ci guadagno. Quando qualcuno le vuole adottare qualcuno, viene, mi dà nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e mi dà 20-25 euro e ci guadagno. Con questo compro mangiare, vermifugo, antiparassitario e mangio pure io. Hai capito? E per cui, qualcuno dice c'è una compravendita illegale, sulle spalle di Nino pendono diverse denunce, da quella preoccupazione di suolo pubblico, truffa, maltrattamento di animali, accattonato. Postate una sola di queste cose che sta dicendo, postatemela e mandatela via email. Che Nino Spina non si fa vedere una sola. Ma gli animalisti perché ce l'hanno con te? Perché gli animalisti ce l'hanno? Te lo sto spiegando, perché io sono l'unica a Palermo che riesce a fare quello che non fanno gli animalisti. Ma non sono animalisti, come dice, sono pseudo-animalisti. Sì. Gli animalisti, l'animalista vero non lo dice io sono animalista. C'è una signora che gira col cofano pieno di mangiare nella macchina, va girando, trova i cani abbandonati e ci apre la scatoletta. Quella è una signora che ama gli animali. Hai capito? Io non sono animalista, io mi sono mangiato ieri un pollo intero. A me amo i cani, io parlo con i cani, sono qua tutti davanti a me. Hai capito? Cioè, io li tengo. Alcuni dicono che non riesci a tenerli bene, che non c'hanno i controlli, rischiano l'abbandono. No, il controllo sono pieno. Dico, tu pensi che ora sono in radio e io non c'ho i controlli? Ho avuto tutti i controlli, la polizia cinofila è dalla mia parte. Mi ha controllato ogni mese, viene a controllarmi e mi fa i complimenti. La polizia stradale si viene a prendere i cani da me. Ma chi se ne frega? Come, Gio? Come? Che dici? No, chi se... no con rispetto. David, chi se no, ne frega? Ma come chi se ne frega? È importantissimo invece. Gli rompo mandalo a fare in culo, no, dai. Parenzo, ti voglio dire una cosa. Tu lo sai, fai il coso dell'ammazzamento quando la legittima difesa, se viene qualcuno nella tua proprietà. Sì, certo, come? C'è una falla, Cruci. Cosa? Cruci, si conoscono? No, non lo conosco. Amici. Però amici, Nino, amico, perché ti chiamano sui siti, ti chiamano il venditore abusivo? Il venditore abusivo. Perché è male, è più facile da come si dice, da cioè comunque tu un po' li vendi, fai commercio di cuccioli, dai, ma per me fai benissimo. Il commercio è quando compri e vendi, giusto? Vabbè, ma è tutto in nero, però fai tutto in nero, fai, dai, su, tutto ma in nero che raccolgo cani abbandonati in mezzo alla strada, Cruciano. No, ma per me, amico mio, Cruci, ma la finanza, sono la finanza, sono cuccioli che non vogliono. La finanza ti ha mai rotti i coglioni o no? Per quello nessuno. Che nessuno. Allora ti stavo raccontando questo, dopo un anno di attività mi è arrivato, mi sono venuti quattro giacche e cravatte dei NAS, dunque anche di sofisticazione. Senta, deve venire con noi. Ma chi vi siete voi? Lei deve venire con noi. Mi portano in caserma una parallela della mia, perché se la banca salgo, lei è un figlio di puttana, un figlio di cacata. Signora, complimenti. Chi lo dice? A me, questo poliziotto. Ah, il poliziotto. A me. E lei, scusi, qual è il motivo? Perché lei ha inventato un modo che nessuno le può dire niente. A noi c'è avuto una segnalazione che lei la fa a traffico internazionale di animali. Abbiamo visto che la gente glieli porta, che lei li tiene bene e che poi li dà tramite una piccola offerta. Non gli possiamo fare niente. Qua ci sono i documenti, la relazione, vada via. Comunque è un figlio di cacata. La ringrazio molto. Senta, i pedofili, che torniamo ai pedofili un secondo. Ah. I pedofili in carcere, quando tu sei stato in carcere, come campano? Minchia, così di lusso. Ma di lusso questa gente. Di lusso, campa. Di lusso. C'è qualche episodio. Che, vero, no? Che vuol dire? Confronto ai detenuti. Allora, hanno le celle singole, giusto? Sì. Perché questo lo puoi capire da te. Vabbè, certo. Poi hanno... giusto, poi hanno la loro aria, giusto. L'aria noi l'abbiamo in comune, l'aria dove si passeggia. Sì, noi, beh certo, la loro aria, perché altrimenti si rischierebbe l'aria. Capito, poi hanno i colloqui personali, non è che siamo in una stanza dove... Cioè tu dici, alla fine stanno alla grande. Ah, comunque, ci devono solo in castrazione chimica. Ciao Nino, ciao, un abbraccio. Chiama presto, Nino. Dimmi, che cazzo vuoi? Che c'è? Dimmi. Metti che dobbiamo ammazzare a Parenzo, lo invitiamo in una villa e ci diciamo: Parenzo, vieni a casa mia alle 9 di sera. Lui entra, noi non gli apriamo il portone, lui bussa, lo mettiamo socchiuso, entra, sale le scale e ci spariamo. No, diciamo che Parenzo è salito, ascoltami, diciamo che Parenzo è salito, all'improvviso ci voleva aggredire, gli mettiamo un'arma vicino alla mano. Questa è la legittima difesa, fa acqua sta cosa, Gio. Cioè, ma che vuol dire? Si possono inventare delle cose, dici. Ho capito. Giuseppe. Questo è il parere di un Parenzo, questo è dalla parte tua. Questo è un parere interessante e autorevole di un ex criminale. Che quindi conoscendo. È un ex criminale che quindi conoscendo il signore. Quando la cosa gli conviene, hai sentito, Nino? È un parere autorevole, è un ex criminale, ho detto. Quando la cosa non ci conviene, non è buono. È un grande Parenzo. Ciao, Nino. Ciao. Allora, ciao, Nino, caro. Volevo segnalarti. Ciao, ciao. Segnalarti questo. Il signor Sami Varin, che se mi rimanda ancora messaggi vocali, lo mando a quel paese. Mi manda. Adesso lo mando in onda, sto messaggio qua. Che cosa? Manda sto messaggio a Marchetta per la sua... Senti qua, vediamo se si sente. Il disco, no, ma chi se ne frega? Ma sì. Audace, istintivo, fuori controllo. Pazzo. Libera la bestia che c'è in te. Beh, pazzo. Puoi leggerlo, puoi scriverlo, non puoi comprarlo. Il populista, online, dal 5 maggio. Ma il leone. Vabbè, ma fa la pubblicità al sito di Salvini, qual è il problema? Ma che roba è? Vabbè, ma ho capito, quella è la cosa... Ma adesso ti faccio sentire, fermi tutti, il peggio, il peggio... C'è un ospite qui intanto, Il vuoi. Peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavanti. Allora, si inizia parlando ovviamente dei negroni, di quelli che scappano, di quelli che non scappano. Sarebbe... No, i negroni, senti, senti, vai. Padania bella e libera, guardavanti. Questa è un'espressione utilizzata dall'avvocato di uno di questi signori negretti che è stato sorpreso a violentare un bambino in piscina. Uno di questi negretti ha violentato un bambino qui in Italia, è caduto chiaramente in piscina e si è giustificato dicendo che era in emergenza sessuale. Questo almeno lo ha detto il suo avvocato, pagato da noi. E ti cullerà figlia della libertà. Servi di Roma fuori. Voglio aiutare coloro che scappano dalla guerra. Ma coloro che scappano davvero dalla guerra, cazzo! Non i negroni in perenne emergenza sessuale, fighi, muscolosi, vestiti bene, che io in confronto sono uno straccione e che vengono qui a scoparci le nostre donne, cazzo! Senti Varin, aspetta, si è scoperto. No, aspetta, è evidente. Si è scoperto, certo. Perché ha paura dei cioè, dei neri. È evidente che se una donna... When you try black, you never come back. Allora, la voglio dire grossa qui, di fronte a Varin. Adesso facciamo troppa pubblicità pure a questa sì, radio, secondo me. Comunque, la voglio dire grossa. Caro Varin, è evidente, è chiaro che anche una donna padana, se dovesse scegliere tra te, L'avete guardato in faccia, signor Varin, Sammy Varin. È un bello aitante senegalese. È un bello aitante senegalese, amico mio. Donna padana, chi sceglie alla fine? Chi sceglie alla fine? L'aitante senegalese, e dico solo aitante senegalese. E dico solo aitante senegalese, oppure il signor Sammy Varin. È evidente, è chiaro che scegli mille volte l'aitante senegalese. Ma mi pare evidente, mi pare scontato. E continuiamo, perché poi se la pigliano con noi, vai. Bello, bello, bello sputtanare il prossimo, Cruciani, lo so che ti piace. Già, solo perché tu lavori in una radio forte, potente, con tanti, tanti soldi che arrivano quotidianamente da piccoli e medi industriali. Servi di Roma fuori. Almeno i soldi arrivano da piccoli e medi industriali e non dallo Stato. E non dallo Stato. Guardavano. Grazie, ma non ci interessa essere più forti, signori. Come a me non è mai interessato andare a lavorare nelle radio, quelle con dietro potentati economici mostruosi. Che schifo, signori. No, il motivo è che non ti hanno mai chiamato. Questo, no, questo è il punto. Cioè, non è il punto. Cioè, il punto è solo questo. Cioè, non è che non mi è mai interessato. Non ti hanno mai chiamato. No, fate. Si sono messi a ridere perché un nostro ascoltatore parlava in dialetto. Cioè, capisci? Quale oltraggio hanno fatto alla nostra terra, ma se ne fottono altamente di voi, dei vostri genitori, dei vostri nonni, di tutta la cultura che la lingua e il dialetto ci ha portato. Loro sono per un'Italia senza più differenze. Ma è pazzo completamente, non ha capito. Non abbiamo, anzi, al contrario, noi ospitiamo tantissime persone che parlano in dialetto, amiamo tantissimo i dialetti, dunque non abbiamo preso per il culo questo. Era quello che diceva quel signore in dialetto, casomai. Varin, come al solito, non ha capito un cazzo. Cruciani, sei immorale. La Zanzara. Ragazzi, ma stasera veramente qui mi dicono che c'è pure un altro ex Galeotto. Parenzo, ma che è? Cioè... Un Galeotto? Ma sì, Maurizio da Biella, vai, Maurizio, vai. Maurizio. Intanto devi, ti presento una persona che qui ho. Sì, lo so, non ti preoccupare, stai tranquillo, stai calmo, non ti preoccupare. È un imprenditore. Fai fare a me, Maurizio da Biella. Si chiama Franco Lucci, è un imprenditore. Sì, Maurizio da Biella. A Confindustria. Ciao, aspetta che stengo il cambio. Allora, io ho fatto Cruciani parecchi anni in carcere, carcere speciali. Sì. Ho girato l'Italia. Sì. Parlando con te, voglio parlare anche con dei pedofili. Allora, ricordatevi che lì dentro non vi toccano. C'è gente che si annoia, ergastolani che ha 20 anni. Voi siete in isolamento, ma non siete da soli. C'è chi vi porta da mangiare, dovete andare alla doccia. La notte non vi fanno dormire, vi mettono qualcosa nel mangiare che andate a cagare continuamente. Scusa la parola. Nella doccia c'è qualcuno che approfitta di voi, che in isolamento c'è anche i gay, c'è qualcuno per altri motivi. No, ma non ho capito bene, Maurizio, ci stai descrivendo quello che avviene in carcere dei pedofili? Quello che avviene, sì. Cioè, come fai a saperlo tu? Come fai a saperlo? In carcere. Come faccio a saperlo? Come fai? Dall'Italia io... Ma che hai fatto per finire in un sacco di... No, per carità, io non ho ammazzato nessuno, non trovo droga. Reati comuni senza poter via niente alle case private. Reati comuni, che vuol dire truffa? Opere d'arte, cose anche in Europa. Un ladro buono, insomma, dai, un ladro buono. Ladri buoni, un ladro. Come vuoi, un ladro di opere d'arte. Ma si descrive così. Quanti anni hai fatto? Ne ho fatti 12 buoni, 30. 12 in galera. Mamma mia, 12 quanto hai rubato? Scusa un attimo, i pedofili, allora stavi spiegando. Allora ti spiego, io sono stato Pianosa, Sinara, al Boncammino a Cagliari, diversi carceri. E ti spiego cosa succede, non vengono toccati perché neanche il più imbecille del gastolano non ha voglia di prendersi un anno in più, due anni, certo, perché ha toccato uno. Sono in isolamento, chi li porta da mangiare è uno che può andare in isolamento perché anche lui magari non può stare con gli altri. Si rivolgono a questi e gli dicono: senti, vuoi stare più tranquillo te? Non farmi dormire la notte quello. Poi tramite una guardia, perché c'è anche qualche guardia che gli dà uno spintone che gli fa battere la testa, tramite una guardia si fa arrivare un bel botticino di guttolo, se lo mettono nel mangiare, tramite qualcuno gli dicono: guarda che sappiamo dove stai, quello esce di lì che ha paura anche di toccare una donna. Poi impazzisce, Ma perché li trattano così? Cioè, perché vengono fatte pedofili queste cose? Spiegami. Perché sono odiati dai detenuti, almeno io. Sì, ma, capito, ma un criminale che è in galera per, no, non è il caso tuo, magari per omicidio o cose del genere, perché se la dovrebbe prendere con un pedofilo? Il codice, allora, del carcere. Ma te lo spiego, è un codice. Adesso non c'è che più vuol dire un codice? Prima. È per sfogarsi. Un codice, è un per codice. Sfogarsi, perché non è un cazzo ma da qua, fare. No, perché il criminale non tocca i bambini. Mettiti nei panni di uno che è un ergastolo, cosa fa? Questo gli, sto dando torto, sta annoia. No, appunto. È un pedofilo, divertiamoci. Appunto, è quello che dico io. Divertiamoci col pedofilo, non c'è nessun codice. Il codice è un codice, a parte che anche se ci fosse il codice sarebbe una cosa barbara. Beh, certo. Per cui non è quello. Non c'è più adesso. La cioè, capito, vengono, tu stai dicendo che vengono fatte ai pedofili delle piccole, sì, diciamo, ma le piccole impazzire. Che fanno impazzire, dei dispetti che, fanno che li fanno impazzire. Sì, sì, sì. Spero che sia ancora così. Scusa se è brutto se lo dico. Cioè, io mi sono messo a posto. Sono tranquillo, però. Tu che hai fatto i pedofili in carcere? Ah, io niente, però ero lì. Ero a Saluzzo. Cioè, anche tu speri che ai pedofili in carcere venga fatto purtroppo, un po' di. Purtroppo, sì, perché io vedo queste cose che succedono, sono troppe. Spero che mi sentite, signori pedofili. Mm. Se andate dentro, non vi toccano, ma morite psicologicamente. Vi fanno impazzire. Vi fanno impazzire. Ciao, ascoltate. Maurizio. Ciao. Traffio una sera. La Zanzara. Succede? C'è un cadavere, ecco che c'è. Ma quale cadavere? Su, è un normalissimo coniglio che sta per essere cucinato, tutto qui. Ma perché? Perché se le conosci benissimo le regole di questa casa? Rita, per favore, non te ne uscire proprio stasera con le tue stronzate vegetariane, eh? Il coniglio al forno è il piatto preferito di Rolando e noi stasera ci mangiamo quello. Se tu non vuoi c'è la cosa, la cacio e pepe, oppure ti mangi le patate, che quelle ti assicuro che non sono state torturate, d'accordo? Comprato questi, eh? Avevo ordinato quelli vegetariani, perché? Erano finiti. Ah, erano finiti? Sì, erano finiti. Beh, strano, perché ho detto al negoziante di mettermeli da parte. Di' la verità, tu non l'hai comprati per il prezzo, eh? Vuoi la verità? Sì. Sì, non l'ho presi per il prezzo, sai perché? Perché trovo immorale, trovo assurdo spendere 70 euro per dei cazzo di croccantini vegetariani! Oh, ma settimana scorsa 300 euro di veterinario. Ma quel cane costa più di un cavallo da corsa. Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei croccantini, lo ma sai? Ma che cazzo me ne frega, Rita. Ma Cico è un cane. E i cani da che mondo è mondo sono carnivori. Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane. E che cazzo. Allora, mandando in onda questi pezzi di un film di Gianmarco Tognazzi detto Jimbo, il ministro che esce domani, abbiamo anticipato il dibattito che si sarebbe scatenato qualche tempo dopo. Si parlava all'epoca del coniglio. Tempo dopo, come sapete, è andato via. Se n'è andato. Come è andato via? Jimbo è andato via. Sei incazzato? Sei incazzato? Sei incazzato? Incazzato perché sei incazzato? Incazzato, te la vedi con lui. Ma dov'è? Jimbo è andato via. Ma figuriamoci se sei incazzato, dai. L'hai visto? Dove sei? No, so qua, l'hai visto il film? Ancora non l'ho visto, purtroppo. Beh, no, dai, no, allora dai, chiudiamo tutto. Ho capito, amico mio, non ho avuto più non ho avuto tempo, sono incasinato, ho la testa per aria, dai. C'hai ragione, però entro lunedì lo vedi. Ti prometto che entro lunedì lo vedo. Ti prometto che entro lunedì lo vedo. Perché io volevo avere un vostro commento. A me non me ne frega niente di parlare del film. Io volevo sapere da te lo so, e da hai Parenzo. Ragione, hai ragione. Parenzo l'ha visto? Nemmeno lui. No, sono riuscito a vederlo, però mi arrapa la storia dell'imprenditore Franco Lucci che invita il ministro per dargli una tangentina. Cioè, no, è ancora peggio. Quella sarebbe banale. Fosse così sarebbe banale. Mi arrapa la storia. Beh, un po' banale lo è, ma non è tanto quello, perché non è che raccontiamo niente di nuovo. Però vediamo quello che il cinema come dire, non ha comunque raccontato. Cioè, quanto siamo disposti oggi a essere servili ed accondiscendenti nei confronti del potere pur di ottenere qualcosa e di difendere i nostri interessi? Beh, sempre tantissimo. Tantissimo. E questo si può estendere a qualsiasi categoria dove c'hai uno più alto in grado e tu sei in qualche modo sottoposto. Lo sai qual è il punto? Che da questo punto di vista, sai qual è la migliore difesa? Guadagnare tantissimi soldi. Che è quello che prova a fare Franco Lucci attraverso il ministro. Esatto, però quello è diverso. Se uno più ricco sei, più guadagni, e soprattutto guadagni senza avere un solo padrone, e più sei libero. Cioè, i soldi danno una grande libertà, altrimenti se non hai i soldi, purtroppo, sei meno libero. La realtà dei fatti è questa, ragazzi. C'è poco da fare. Un po' è così. Tu, per esempio, hai tanti soldi? Jimbo Tognazzi, figlio di Tognazzi? Jimbo Tognazzi oggi è andato perché aveva... dove? A Equitalia? No, a Equitalia ogni mattina praticamente sto lì. Cioè, tu hai debiti con Equitalia? Ma che stai a scherzare? Quanto hai con Equitalia? Ma quanto offenderlo? Ma un centinaio almeno. 100.000 euro? Ma non è che ho debiti, ho rateizzato cose. E che casini, cosa? Cos'è che non hai pagato? 100.000 euro con Equitalia? No, in realtà, allora, se per questo avevo fatto una causa dove oltretutto avevo anche vinto, poi abbiamo avuto un cazzarola di casino. Che hai fatto? Ma niente, non ho fatto niente. Sai quando non arrivavano pagate, cose, cartelle pazze notificate in maniera non corretta? Beh, cartelle pazze, magari tu non hai pagato le multe come me per un sacco di tempo, poi a un certo punto ho messo tutto a posto io. No, fidati che non è così semplice, però è un discorso lungo, dai, è una roba lunga. Quando vabbè, voi ne parliamo approfonditamente. In banca quanto c'ha il figlio in questo momento? Se non mi arriva un bonifico, sto messo, diciamo, abbastanza col sei culo rosso, per terra, però, sei rosso, diciamo un millino in rosso sono. Cioè, fare l'imprenditore del vino come fai tu, ieri sera impegno, ho assaggiato ma... un vino molto buono peraltro, e Antani e da Antani, come sappiamo, fare l'imprenditore del vino e nello stesso tempo fare l'attore, praticamente stai con le pezze al culo. Nonostante questo, beh, stai con le pezze al culo. Non è le pezze al culo, è sempre un giro, no? Gira che ti rigira, un giorno ti va bene, metti a posto certe cose. Lo sai com'è l'Italia, non è che ti dicono arriva il bonifico e arriva quel giorno. Un impiegato sta meglio di te. Cioè un impiegato, non diciamo cazzate, un dipendente dai, pubblico semplice. Ma non esiste, noi siamo solo incasinati nel dover gestire cosa entra, cosa non entra, come mettere la toppa, come... ma non c'è paragone tra il benessere che viviamo comunque noi e chi invece ha uno stipendio dove fa fatica a tirare avanti, dai, su. Beh, però quelli hanno lo stipendio sicuro magari, no? C'hanno lo sì, ho capito, assicurato. Però secondo me non c'è il paragone, dai. Non c'è il paragone. No, senti, paragone. Poi del film parleremo un'altra volta. Parleremo quando vuoi. Esce domani, possiamo, andate tutti a vederlo, ragazzi. Possiamo dirlo che perlomeno che esce a Milano, a Roma, a Torino, perché a Genova, cosa particolare, a Firenze. È una cosa particolare. Perché è un film piccolo. In 20 sale. In 22 sale. Sì, noi siamo molto piccolo, a favore di queste cose qua. Però è una commedia black al vetriolo, che l'hanno definita così. Sono uscite delle belline. Black al vetriolo, non sa cosa vuol dire lui. Allora, la commedia è commedia. Però quando sei anche cattivo, cinico, un po' come quei film degli anni 60, un po' come, no? Me, un po' come me. Per quello ti ho detto guardalo, ma tu non lo vedi? Dai, su, capolavoro, Cruciani. Capolavoro. Senti, il tuo amico Alessandro Gassman come sta? No, sta bene, perché se l'è presa ultimamente con il principe, visto che se l'è presa molto col principe. Ma se l'è presa col principe? Se l'è presa col principe, sì. Con Savoiardo. No, Giovannelli, è il principe di Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto di Savoia. Sì, esatto. Si è preso con Emanuele Filiberto di Savoia. Perché lui ha scritto delle cose sui partigiani e quello si è incazzato dicendo che è un traditore. Ma ancora, ma dai, ma lasciamo, ma dai, su, ribaltiamole, dai. Capo, sì. Diciamo, senti, dai. Senti ti... che voce che riesce a tirare. Senti fuori una cosa, ma un cattivo, un cinico, come recita? Sì. Cioè, come recita il cattivo del tuo film? Il mio non è un cattivo, il mio è un vile. Come recita? Fammi una scenetta, fammi una cosa. Cosa vuoi che ti dica, Cruciani? No, quello che vuoi cioè, dire. Cioè, vile è l'imprenditore. Ecco, un imprenditore vile, come parla? Come parla? L'imprenditore? L'imprenditore vile, come parla? L'imprenditore quello... Viscido. Quello viscido. Dice, no, mi sembra che qui ci sia tutto, no? C'è il piano... qui ci sono le carte del Nord che ci ha dato il comune, mi sembra che sia tutto a posto, insomma io credo di aver fatto tutto come mi è stato detto, è a posto, no? No, è a posto un cazzo, ah, grazie. E il ministro invece è il cattivo di Gomorra. È Fortunato Cerlino che poi è il cattivo di Gomorra, che qui si ribalta nel senso che va a fare diciamo il capo delle istituzioni, poi c'è Alessia Barella, Edoardo Senti, Pesce. Senti, una cosa del genere, però voglio chiederti una cosa, perché tu non sei come tuo padre, cioè non sei un Don Giovanni come tuo padre? Ah, perché non sono perché no, cioè, guarda, perché non sei un femminaro, guarda, come amore tuo padre, mio un femminaro. Chiedi in giro. Ce lo sei stato? Dai, capolavoro. Ho fatto più danni io, mi sono anche rovinato la vita. Poi a un certo punto ho incontrato l'amore, capita, può capitare, dici? Sai? Sì, sì. Io l'ho incontrata in Sardegna, tu magari l'hai incontrata dove? No, ancora non l'hai incontrata. Non lo so, sì, secondo sì, me gatta no. Cicogna, secondo me Cruciani invece. Non lo so, ma io sono sempre in bilico. Sai che tu sei uccello di bosco? Sono sempre in bilico. Lo so, ma invece io sono felicemente sposato, amo e quindi così non ho. Non è possibile che non tradisci, non è possibile, non ci posso credere. Lo sai che mia moglie. Non lo diresti mai. No, non è vero, a parte che lo dire, lo potrei anche dire, ma non lo dico. Lei lo accetterebbe? No, assolutamente, è sarda, mi sgozza, ma che stai scherzando, ma non esiste. Però no, però giuro che no, perché in questo lato sono molto Bettoia, cioè il lato di mia madre. Franca Bettoia, certo. Che invece cioè, è stata una donna tutta ad un pezzo integra. C'è quello che ha dovuto subire pure. Guarda che Ugo era rapido nell'estrazione, Sì, molto che senso? Rapido nell'estrazione. Cioè, era in che senso? Lo estraeva con velocità. Era... Cioè tu dici lo estraeva con velocità. Beh, sai, quando, già è una dote. Io per esempio non sarei capace a essere rapido. Sarei molto, devo essere architettonico, una cosa lunghissima per me. C'è chi è rapido. Tu secondo me sei rapido, sei un po' come Ugo. Capito, ma rapido che vuol dire secondo te? Non ho capito bene la metafora. Veloce. Nel metterlo dentro, dici rapido. Ma no, già nel proporlo, no, ecco. Cioè vedi? Lo estraeva con velocità, nel senso bastano pochi minuti per essere soddisfatti, in questo senso. Sì, lo tirava fuori con nonchalance. Con nonchalance, così come se fosse un pendaglio. Ah, ma lo tirava fuori, non lo infilava. Beh, non lo tirava... ma quello, se hai quel carisma, secondo me, poi il passo è breve, eh. Ho capito, però amico mio, io in realtà no, sono molto un po' più barocco nelle cose, cioè sono un po' più complesso. Allora io non ti posso dire tuo padre dove... invece lo tirava fuori con grande facilità, diciamo. Allora io ti posso dire solo che durante il cambio scena di un film di cui non ti dirò né il titolo né l'attrice, a un certo punto papà nel letto con questa attrice gli ha detto ha detto: senti, te lo posso infilare dentro ma poco. Adesso poco, io non ho mai capito se fosse poco per dimensioni o per durata. E tra il cambio di un'inquadratura e l'altro. Tu fino a 10 anni fa praticamente facevi così. Io fino a prima di conoscere mia moglie non facevo così, però diciamo che sono stato matto, sì, abbastanza. Sei stato matto, cioè, voglio dire, te ne facevi quante ne sei fatte in tutto? Più di 100. Temo di sì. Ragazzi, parliamo. Aspetta, fermi un minuto. Dobbiamo chiamare Febal, perché è successa una cosa incredibile che ho saputo. Dobbiamo chiamare per forza. Come? Ti sei scopato Febal? Sto scherzando. Prima che fosse famosa, sarebbe una notizia. Allora, fermi tutti, che dopo la pubblicità chiamiamo Efe perché c'è una notizia clamorosa che è uscita. È clamoroso a Milano. Clamoroso a Milano. Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Cruciani e Parenzo, siete solo due minchioni, questa è la verità di oggi, ciao. Marcello da Monza, vai Marcello, vai. Vai. Sì, ciao. Dimmi. Sì, volevo salutare tutti qui. No, ragazzi, non si sente, dai Marcello, su. Sì, volevo dare un pochettino conto con... Non si sente Marcello, vai, parla, togli il microfono, togli l'auricolare, togli tutto, spogliati. Mi senti così? No, Filippo da Napoli, dai, mi sono rotto i coglioni. Filippo. Oh, buonasera, chi è? Conduttore? Che fai, Fischietti, che fai? Sì, aspettavo che mi chiamasse. Vai, dimmi. Ciao, buonasera, ciao Peppe, ciao David. Io in realtà volevo affrontare una tematica, questo gettonatissimo alla zanzara, e sono sicuro che anche tu apprezzerai, perché si parla di scorreggi, se ti va. Ma non lo so, dimmi quello che devi dire, dai, forza, vuoi parlare di scorreggi? Certo. Parla di scorreggi, tranquillamente, sì, vai. Assolutamente, c'è un aneddoto che secondo me troverai gustoso. In pratica c'era un mio carissimo amico del servizio civile, perché io nel lontano 2006 ho svolto regolare servizio civile. Sì. Sostitutivo del militare, sì. E costui praticamente apprezzava, sì, farsi scorreggiare in testa. Vabbè, ho capito, amico mio, il tuo amico di compagno di non so che cosa, di servizio militare, servizio civile sostitutivo, amava farsi scorreggiare in testa. Vabbè, ho capito. Sì. Se vuoi ti do qualche particolare. Ma no, vabbè, ma d'accordo, ma benissimo, dacci qualche particolare. Cosa significa questa cosa? Aspetta che dobbiamo chiamare Febal, sì. Mi sembra che possiamo, il numero si è liberato. Fermo lì. Sì, non mi muovo. Sì. Pronto? Pronto. Sì, salve signora Bal. Ho letto questa cosa dello sconto di 10 euro. Signor Parenzo, potrei fare anche per lei se è interessato. Basta che mi faccio una foto quando vota, mi faccio una foto in modo che io possa vedere. la cosa che lei può confermare. O piuttosto posso fare un pompino senza preservativo all'inizio. Come no, dice signora, scusi? Questo no, all'inizio, questo all'inizio. Capito, questo non ho all'inizio, capito, signora Ball. No. Ma tu lo sai, Efe, tu lo sai che in realtà qualcuno dice che anche i pompini... i pompini senza preservativo possono essere pericolosi. Se fosse così saremmo finiti tutti molto male. Chiedo scusa, signora, per le linguaggio. Io dopo 17 anni ti posso confermare che non ho così. Basta non arrivare fino a fondo, basta un po' gioco. Lei ha incrociato apposta il professore maestro Parisi davanti a un albergo e giustamente ha detto: perché non mi volete? E lui come ha risposto? Allora, io sono prima di tutto stata invitata dal Partito Liberale Italiano a candidare, questo lo sappiamo, sì, questo lo sappiamo. E ho fatto preparare 10.000 volantine dicendo che regolarizziamo la prostituzione. Quanto hai speso? Quanto hai speso già? Più di 300 euro. E invece che è successo? Che è successo? Invece è successo che il signor Parisi ha detto che ci sono persone nel suo partito e nella sua coalizione che non sostengono proprio le mie idee. Cioè che sono cattolici, cattolici, sono no? Sono cattolici che non sostengono le mie idee. Ma quante te ne sei fatti là dentro, tra quelli del centrodestra tu? Oddio santo, ci saranno tanti, ma allora qui c'è un problema veramente molto grave che nessuno vuole ammettere. Ci Qual sono è? 60.000 prostitute in Italia, sì, probabilmente il 30-40% solo a Milano e Roma, che non hanno mai fatto un tessera HIV, non hanno mai fatto una vaccinazione per l'epatite, che vanno a letto a trombare con dei uomini, donne, è un argomento veramente da parlare. Da vabbè, d'accordo, però raccontaci un po', perché non ti vuole nel centrodestra? Guarda, io pensavo che il signor Parisi è veramente la persona più gentile, più alla mano, e perché invece? Sono andata anche a ascoltare Teatro del Verme a marzo. Mamma mia, che coglione. Invece è stata veramente molto dura. Avrei comunque postato anche su internet, su Twitter, su social, dappertutto, dicendo: tutti quelli che mi vogliono bene, che mi sostengono, vabbè, che pensano che dobbiamo fare qualcosa per questo problema. Ma in che senso è stato duro? A Parisi, invece lui è veramente stato molto non duro, cioè, non duro nel senso solido del termine che usi tu. Non duro, 10 euro di sconto, sellaccio, senza preservativo, ma duro di carattere. Duro di carattere, sì, diciamo. Duro di carattere, nonostante alto 1,30, con tutto il rispetto. Cioè, è bassino. Non sono dotato. Comunque. E allora? Allora non muovo. Ti ha detto che ci sono i cattolici, ci sono i cattolici. Accetta. Ma scusami, per te la politica non è una sfida, può entrare a qualsiasi persona, perché l'importante non è chi. Vabbè, non te voglio, sì, ho capito, però se non la vogliono, signora, io capisco che ma forse avranno capito che mi avrebbero votato di più, probabilmente di tanti altri che saranno quello sicuro, saranno, quello sicuro, ma perché saranno in quella lista? Sì, ma poi tu ha detto che io poi ha detto che essere consiglio comunale è un lavoro, non è un modo per farsi vedere. Ma chi l'ha detto che io non avrei lavorato? No, lui ha detto un'altra cosa, mi sembra di aver capito. Ti ha detto: se vuoi cambiare lavoro, non cercarlo al consiglio comunale, cambia lavoro e basta. Perché tu gli hai detto: è il mio modo per uscire dalla prostituzione. Ma mi piace la politica, io sono dentro la politica, faccio godere i politici, vado in televisione a parlare con politici. In che senso fai? Leggo le notizie di politica. A me mi piace politica. In che senso fai godere i politici? Ci sono tanti. Ma anche nel centrodestra, nella coalizione di Parisi? Ovviamente sì, ma figuriamoci, sì. Certo, ci sono molti candidati con Parisi che vengono... Ma signora, ma non è che questo... corruzioni, appalti, ci sono anche quelli che vanno a spendere quei soldi, sì, che trovano da quei lavori lì, con delle belle facciole, con delle uomini, prima o poi vanno tutti con i trans. Prima o poi vanno tutti con i trans, adesso, questo... Però andiamo alla cosa, allora tu ti sei incazzata per questa cosa, mi sembra, no? Ma e adesso che non succede? Non trovo che sia una cosa giusta, siamo nel 2016. Sì, ma spiegami una cosa, come fai a ritirare adesso la tua candidatura dai allora, io praticamente ho bloccato tutto il Partito Liberale, perché io non tolgo la mia candidatura, non vado a fare un passo indietro. E come si fa? Loro non riescono a togliermi, praticamente anche loro non entrano come partito a questa elezione, non riescono a presentare questa lista, perché io non mi tolgo. Esatto, e dunque saranno costretti a ritirarsi? Sì, ho bloccato un partito, nonostante piccolo. Ho con bloccato la mia... un partito, no, però, scusi, ho bloccato, signora, un partito, perché non riesco né andare avanti né fare un passo indietro. Pensa al signor Altissimo, il nostro amico Altissimo, ex segretario del Partito Liberale, secondo me da lassù è dalla parte della signora Efe Ball. Però tu a questo punto hai detto: guardate, sai che vi dico? Chi vota Sala? Chi vota Sala faccio lo sconto. O di 10 euro o un sellaccio all'inizio senza preservativo. Ben buttaia. Cioè, non ho capito. O 10 euro per la prestazione. Cioè, chi ti porta il certificato elettorale? Spiegaci un po' questa iniziativa, sì, bellissima. Sì, quando votano devono andare lì, fare un attimo una foto dicendo: Efe, guarda, io ho votato Sala, viva Sala. diritto al disconto. Ma non si può, è un reato fotografare la scheda elettorale. Si pensa anche di andare lì proprio da sola il 5 di giugno, sì, aprire una fissione con tanti 5 euro con me, 10 euro con me, dicendo non votate a Parisi, chi vota sala regalo 10 euro. Bellissimo, sì, davanti, stupendo. Ma è un riscambio, no, non tanto si può. In politica non entrerò mai con tutti questi ipocriti. Figuriamo, brava, davanti ai seggi. Bene. Bello, davanti ai seggi. Davanti ai seggi. Sì, tu mi dici qual è il più grande. Qui davanti, Corso Porto Nuovo, ce l'abbiamo una scuola. Portatemi, che vanno... dimostratemi che avete votato per sala. E vi do... Ma scusami, tanto quelli del PD a Napoli non hanno pagato per i voti. Quello pure è vero. Quello pure è vero. Quindi io pago per chi vota sala. Cioè dall'altra parte. Scusa, 10 euro, euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro per la prestazione. 10 diciamo. Volte di più. Pensate quanto sono generosa. E per la prestazione. Sia nel letto che sia in generale. Senti, 10 euro per la prestazione di sconto rispetto alla tua tariffa, che di solito la prestazione completa quant'è? Un centinaio? Quant'è se tu? Ma sì, per mezz'ora 100, per un'ora 2, per tre ore come ho fatto con un cliente ieri bolognese molto ricco, molto carino, che mi ha fatto sudare. Dopo sono andato tre ore, a Parisi. Tre ore quanto? Ho fatto con lo sconto 500 euro. Tre ore 500, mazza. Esatto. Senti, esatto. Con lo sconto. Come ne dici? E me ne frega di essere un consigliere comunale dall'altra parte. Tu mi devi sgridare. Ma chi cazzo te ne freghi? Se alle fine al mese fai più di 10.000 euro, perché ti devi mischiare con con questa gente ipocrita, bigotta? Beh, loro vanno con le mignotte e con le trans. Poi quando invece cominciano a parlare di trans, giusto, vogliono subito ignorare. Cioè, insomma, io devo vivere la mia vita con i scusami, miei allora, però è legittimo che Parisi non ti voglia e ti schifi, cioè, si imbarazza, perché? È legittimo. Ma imbarazza di che cosa? Sono loro che devono essere imbarazzati di Nicole Minetti. Soltanto tre anni fa era in comune. Scusami, giusto, giusto, all'attacco, all'attacco. Ieri un altro sindaco a Lodi. Ho capito, ma è legittimo. Devono imbarazzare. Beh, adesso stare... Ha ragione, sono altri che si devono imbarazzare. La signora Efeballe c'ha i coglioni. Quella è vuoi essere la Nicole Minetti, un nuovo Nicole Minetti. Ma è legittimo che il signor Parisi dica il nostro elettorato non capirebbe la candidatura di una signora. Ma che cosa devono capire? Ma vanno tutti a mignotte pure quelli, dai. Mussolini è diventato capogruppo di Forza Italia per le elezioni di Roma, che suo che marito c'è? Va a trombare con le mignotte di 16 anni. Ma che c'è, ma di che cosa devono vergognarsi? Ma che di dice? Me? Questo pure, ma chi lo ecco, dice? Ragazzi, lui ha dovuto patteggiare due mesi fa, è colpevole, è andato a ma che c'entra la signora Mussolini? Però non c'entra niente quella lei. Quello è il marito, ma però. Ma non c'entra niente, scusami. Ma quello è il marito, Italia. Che cosa c'entra è lei entra. Col marito? Insomma, lei signora è una simpatica transessuale che fa questi suoi lavori con la bocca, con quello che vuole. Non la vogliono Parisi, non la vuole. Finché faccio 10.000 euro al mese, userò tutti i miei poteri, sia di fellaccio, sia di culo, sia di soldi, ancora, sia di contanti, di tutto, specifico pur di un giorno poter entrare in politica, perché mi piace e mi intriga, va bene? C'è da dire. Scusa, però concludiamo, i 10 euro sono per la prestazione di sconto. A te ti piace questa 5 cosa? Euro invece? A te non è che faccio sconto, ti faccio gratis. Questo lo so tesoro, però questo, vediamo. Un po' di coraggio e vieni. Vediamo. Senti, 10 come euro. Vediamo? A 10, punto vai, scusa, 10 signora. Euro per lo sconto, 5 invece per la prestazione completa, 5 invece solo per la fellazio, giusto? Invece di pagare 100 euro per mezz'ora, possono pagare 90 euro o possono pagare 100 euro con un fellazio senza preservativo all'inizio. Va bene? No, vabbè, così sono, proprio. Mi sono spiegata bene. Beh, sì, più o meno. Mi pare di gratis, sì. Totalmente da Apple. Che le ecco i piedi, lo so che ti piace. Lo so che mi schifo, vuole caricare. Ragazzi, ciao tesoro, che ciao. Schifo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. No, ma la vera domanda, caro Jimbo, la vera domanda è come mai la signora Efeball sa che a me piace, per esempio, ho la perversione dei piedi, per esempio. Come fa a saperlo? Beh, secondo tu lo dicesti già in passato, eh? Sì, non è era vero, una vero. Novità, tu, lo sanno tu che molti. Sei un esegeta della zanzara, lo beh, sai benissimo, lo sai. Dai. Pure tu ci avrai questa perversione, qualche perversione, nonostante no, dieci io anni non posso toccare i piedi di mia moglie. Non posso toccare perché i piedi di mia toccare? Moglie, perché la cosa che le dà più sui nervi al mondo, salta sul letto e si ribalta come un capretto e ti dà i calci. Piedi brutti, ci avrai no, piedi brutti. No, assolutamente, proprio soffre il solletico a livelli allucinanti. La tua perversione più grande qual è a letto? La perversione mia più grande a letto. Guarda, sono domande però che non si fanno all'ultimo momento. Lo so, io lo faccio apposta. Beh, per esempio la pentolaccia è un'ottima posizione. Cioè? Beh, ci vuole il paiolo. Cioè, vuol dire la pentolaccia? Beh, la pentolaccia, beh, posizioni nuove, le nuove posizioni dell'amore, grandissimo. Tu non le conosci? C'è il sifone ribaltato, altalena messicana. Ma qual è la pentolaccia? Ma è lunghissima, mi devi dare del tempo. Ma se vuoi che ti racconti. La pentolaccia, in 20 secondi devo chiudere. È una posizione ed è lunga da raccontare, non posso stringerla. Ma dimmela, dimmela. La pentola, no, ci vuole il paiolo, bisogna impugnarlo come Bjorn Borg a due mani. Sì, puoi chiedere che si faccia lo chignon. È lunga, ragazzi, è molto lunga. Vabbè, allora, rimandiamola per telefono. La pentolaccia la rimandiamo per telefono. Sì. E il Milan deve vendere o no? Cioè Berlusconi il Milan, deve vendere se, o no? Se lui non, io ho detto addirittura se vuole, perché non prova a allenare lui, perché secondo me se si mette lui a Milanello è i ragazzi meglio. Forse se incute un po' di timore e non la prendono così alla leggera. Però se vende a qualcuno serio oppure viene con i soldi? Sì, beh, non lo so, non mi puoi fare queste domande. Ciao, così Jimbo, veloci. Devi andare a vedere il ministro, tu e tutti ciao, quelli che ascoltano la Zanzara, i nostri ciao, amici ciao, camionisti. Ciao, ciao. Radio 24, la passione si sente.